neo, ma cosa mi difendo? Bah. Comunque già va bene con la radio, dai, abbastanza bene. Poi sicuramente nel vicinato, tipo Pomponio, se magari si sposta di canale, prenderà colpi con la radio, clavero. Ma guarda, stasera stavo parlando con Claudio Di Muros e Gianni Dischetto da Polo Torres. E c'era Antonello che stava forse facendo qualche prova sul 14, oh. Sentivo il leggero bip delle fine portante, ma non disturba, no, è abbastanza selettiva. Adesso mi sono girato sul 12, addirittura non sentivo più a Michele, nonostante abbia un segnalone qua, quasi 9 più 40. Adesso vado a parlare a Roberto, mi sposto, vediamo un po' se lo sento, ma mi sa che è come l'Elbex, anche l'Elbex 4082 è favoloso, proprio non sento niente, nulla. Dovrebbe essere selettivo, perché anche il Polmar è molto selettivo, non sento niente, assolutamente. Comunque questa è una bellissima radio, io non me la ricordavo ma non l'avevo vista bene dal vivo. Stamattina quando sono andato a casa di Gianni mi è piaciuta e l'ho presa, 76574, un bellissimo Midland base. Dovrebbe averlo anche Tonino Cava Sacchi, perché ho chiesto informazioni a lui come andava, ma detto, se ci metti l'MB più 5 è una favola, infatti va molto bene. Avanti Riccardino, li prendi, dopo faccio un altro passaggio e poi chiudo. Avanti Ricca. Ehi Ada, ciao Claudio, ciao Michele, ben ascoltati, sono entrato per andare un attimo a fare carica batterie, scusate se entro così che ci sentiamo più tardi, vado a mangiare e torno. Ripeto, ciao a tutti, ciao Luca, Roberto, Claudio e Michele. Ciao Riccardi, ben sentito. Ma ho sentito che voli con col parapendio, ma parapendio anche col motore nella schiena? Io no, babbo, quello col motore è solo babbo, perché non abbiamo la vela adatta per quella motore. Invece, solo babbo con quella motore, invece io con babbo voliamo volo libero. Io c'ho un amico, lo stesso che vola come voi, sicuramente volerà insieme a voi, il famoso Crepaldo. Luca! Mamma mia, lo conosciamo. Lo so che lo conoscete, perché lui con quella roba lì, sempre svegli, sveline, licchette. Lui fa anche kitesurf, io faccio windsurf, ma lui lo conosco da quando ero ragazzino, perché vabbè, abbiamo più o meno la stessa età. Se lo vedi o se lo vede tuo padre, salutatemelo, mi piace un po', l'ho perso di vista. Anche perché non stavo uscendo col windsurf, l'anno scorso non ho fatto quasi niente vento, forse quest'anno rischierò. Anche se l'infortunio, ma che sono ripreso bene al braccio, va bene. E niente, quindi facciamo girare per Roberto. Tu voli, Roberto? No, infatti voglio farmi fare il giro, se mi viene la voglia di coso col padre di Riccardino, dipende come mi trovo il giorno, mi sarebbe piaciuto, però non lo so, adesso vediamo come va a finire. Ciao Riccardino, comunque dai, buona carica, buon tutto, ci sentiamo dopo. Vai Luca. Ho visto adesso una foto su Facebook là, di Riccardino. Ma ti ho mandato la radio, Roberto. Aspetta, sto guardando. Ma Claudio, comunque è l'ultima la radio, mi piace molto, ma stavo ascoltando, se sono il P4, P5, e poi mi sa che sono i stessi microfoni, no? C'è una regolazione del tono e basta. Ultima, sembra un Thunder P3, che comunque è capsula ceramica, se non sbaglio, e il modulatore va alla grande, non distorce mai. Ultima, va molto molto bene. La frequenza è leggermente spostata, ma è un baracchino normale. 76.75, poca roba. Stavo provando a centrare. Ti volevo dire, poi mi è passato dalla mente, che ti ho visto assieme a Occhi di Gatto, Marco, quando stavate piazzando le antenne di Occhi di Gatto. Non so come ha fatto a trovarvi su YouTube, visto il filmato. Sono di gatto. Ma che aspetta tanto tanto tempo fa. Sì, quando stavamo piazzando le prime antenne di Fabri, eravamo un po' tutti lì. Era appena da forse da poco, un annetto l'arrivato. Va bene, va bene. beh, certo non è centrata al massimo, beh, anche se è quarzata, boh, non capisco perché c'è il Claref, non vorrei che mi sia spostato toccando. Comunque, già, no, bella modulazione, mi sono ascoltato, mi piace tantissimo. Molto bella, corposa, poi vabbè la mia voce è quella. Sì, l'MB più 5 sto usando, il Tony ce li ho a 2 e il microfono è a 4, non è neanche a metà. Ti piace, roba è bella? Pure troppo forte il Clark. Prova a muovere il Tony, Clark, signore. Muovere i Tony, insieme ai giubboni piccitti, perché è regolata proprio sulla mia tonalità, aspetta. Però per me dovresti abbassare un peluccio, Claudio. Robe, no, come sta girando i bibbini? Abbassa il volume, non devo abbassare nulla da giudizio. Ce l'ho a 4, lascialo stare così che va bene. Cosa devo toccare, Michè? I toni, per vedere se com'è, più cupa o più acuta. Guarda, così ce li ho a 2 e così ce li ho a 0 i toni. A quanto fa di espressione? A 0 a 10 toni sono lo stesso, così sono a 0 toni. A 2 va meglio, prova a salire a 3, 4. Oh, che brutta, guarda, a 3 è brutta, ho già fatto queste prove, è una vita che chiuso questi microfoni, vabbè. Va, Michè, questa è, vedi, ce l'ho a 3. La tonalità giusta è questa, guarda. Ecco qua, questa è la tonalità giusta. Esatto, sì, esatto. Vabbè, magari in banda laterale è più chiara se vai più sul cu, più sullo stretto, capito? No, vabbè, vabbè, io ho fatto le prove, è una vita io che non chiedo manco controlli, è giusto così per capire la tonalità che vi chiedo, ma diversamente non ho bisogno di chiedere niente, dai. Già va bene, va bene. Avanti, Lugarie. Cla, ascolta. Carlo fa moda dei costumi da donna, che prima nascondevano il sedere, Cla, con i costumi. Adesso nascondono il culo, cioè nascondono il costume con il culo. Adesso sono la schiena, il culo è nudo. Perché c'è un troppo grande. Ma sì, boh, per carità. E ci sono anche gli uomini che se lo mettono così per il zoom, a me, Luca. Guarda, a me, io da allora, aspetta, 2, 3, forse 3-4 anni a questa parte, sono, non mi ricordo, ma penso, 3-4 anni a questa parte, sto usando lo slippino, il costumino, perché mi è più comodo, perché diciamo, il pantaloncino, come lo vuoi chiamare, mi si appiccica, ma poi ti rimangono la metà, cioè una parte delle cosce bianche, no? Lo costumino, praticamente prendi la bronzatura completa e mi trovo anche comodo, sto bene, la verità. Ma queste ragazzine che c'è, una roba, è uno schifo proprio, Scusate, riprendo io, scappo perché è pronto per carica. Ci sentiamo domani, casomai, se poi più tardi non riprendo. Salutone a tutti, ciao Claudio, ciao Roberto, Riccardino, Luca, e se ho dimenticato qualcuno saluto tutti anche l'ascolto. Ciao, notte. Riprendo io, ciao Michè, ben sentito, dai, fatti sentire quando vuoi. Vai, Claudio e poi lui. Ciao Michè, un abbraccio, vai, alla prossima. Io un po' assenteista in questo periodo, comunque quando capita ci risentiremo, dai, vai Lu. Ciao carissimo, alla prossima, buona carica, buon tutto, ci sentiamo, ciao. Avanti, riprendi roba. Ma sei pulito con quella radio? Sì, pulitissimo. Questa sta dando, allora sono in scala a 200, mettiamo in scala a 20, sta dando esattamente modulati quasi 15 watt. 9 più 50, sì, qua. Vabbè, ma quando ho spostato l'antenna anche Antonella mi arriva molto più forte. Prima Antonella era col K, era sulla punta quasi del 6, adesso è sullo 0 del 6, capito? Anche tu più o meno siete lì, dai. Da quando ho spostato l'antenna anche prima Luca mi arrivava sul più del 3, adesso sta toccando la punta del 3, capito? Mi hai, ed è bassa, l'ho lasciata bassa un paio di metri, non mi interessa, però la visuale è molto più aperta rispetto a prima era sull'altro angolo della strada, adesso proprio nella mia parte. parte, quindi è proprio molto molto più vicino a te, molto più aperta verso di te, Luca e tutti, dai. No, no, già si sente forte, è molto forte il segnale. Ok, anche Michele, vabbè, Michele probabilmente è vicino anche lui, stava arrivando forte anche Michele, quasi 9.40. Sì, sì, Michele è fortissimo anche qua. Vabbè, si avviava un abbasso, è attaccato a me, quindi arriva molto bene. KK, sì, sì, quindi ti è piaciuta questa radio? Ti piace questa radio, l'hai vista? Ecco, bella, bella. Ma lo sai che a me le basi mi piacciono tutte, i veicolari me li vuoi far vedere davanti di voi, qualcuno carino, sì, però a comprarmi, a spendere soldi per un veicolare, preferisco spendere soldi su un apparecchio base, almeno attacchi, diretto, c'è la 220, non devi stare a mattanate, sono più visibili gli smitter. A me i veicolari non mi piacciono, a parte qualcuno che ha lo smitter grande, ma tutti quelli tipo la 44 che hanno lo smitterino che manco si vede, che è una cagata, a me piace vedere belli gli strumenti. No, no, anche a me, già so come SGB, io devo mutare con gli occhiali, perché se uno mi chiede un controllo non ci vedo una minchia, quindi devo tenere per forza sempre a portata di mano gli occhiali. Questo è bello visivo e lo smitter è grande, quanto il Polman più o meno, così, quelli grandi. E va bene, la luce è bella bianca, bella visiva, va bene. Oh, Gappa, quindi Lugarie, non ti piacciono questi pesi insomma femminili, eh? No, non io mi piaccio, Clara. Sono sceni, ci sono certe ragazze che sono scene veramente, aiuta. Alla fine, sì, non sto dicendo che non mi piace, su un uomo, però cavolo, è un'esagerazione. Cioè, praticamente vedi solo il culo camminare, non vedi il costume. Non so, quando ce l'hanno il costume, altrimenti è proprio come dici tu, non va di nulla. Vabbè, io ho una figlia grande, femmina, quindi non posso dire niente. Però è abbastanza corretta, non va male, però non è che posso dirle quello che deve fare, sono problemi suoi. È grande vaccinata, ma fino ad oggi non mi ha dato mai di queste preoccupazioni, dai, anche visive, così. È abbastanza ordinata in tutto. Vai, vabbè. Ok, la cosa brutta è che hanno sorrimone certe damigiane, certe balene, magari, che non se ne fanno la vergogna, solo quello. Però, purtroppo, dai, gli uomini già ci riguardiamo tutti quanti, però poi quando vedi magari una persona di famiglia che ci tiene, ci pensi diversamente, lo vedi in un altro modo. Beh, lo vedi in un altro modo, però, cioè, lì dipende anche da chi sta con lei a dirle com'è che, insomma, si è vestito. Se poi c'hai un marito che non era fotti nuda o pensa, vabbè, boccaccia mia, stati zitta, non me ne ha fotti nuda. Vai, Luca. Ehi, allora, perché io sono in fase di abbiocco, perché oggi mi sono, cioè, oddio, stancato, no, però mi sento stanco. Infatti poco fa mi sono abbioccato la marina, ma mi sono dormito come se niente fosse, va. Stanco. Ma adesso io rimango in ascolto, sicuramente mi addormento ascoltando, vi abbasso un po' il volume, sennò poi è un casino. Perché capita che mi addormento, è successo più di una volta, gente di entrare al canale 10 a mezzanotte, l'una fischiando e cercando gente. Adesso fai l'incubi, io sto chiudendo, non mi fai niente. Ho già chiacchierato anche troppo. Beh, vi saluto, vado a vedermi la partita, c'è Inter-Sampdoria, che ho riallacciato Sky, hanno fatto in tempo prima dell'inizio del campionato. Guardo un po' di TV e poi mi va a andare, domani mi va a stare, vabbè, non mi va a stare andare a mungere comunque, alle 7, che alle 8 devo uscire, 8:15, Ci sentiamo, ragazzi, grazie delle chiacchiere, ciao Roby, ciao Tami Riccardino quando rientra, ciao a te Luca e chiunque sia in ascolto, riprendi Roby, ascolto i finali, poi chiuso, ciao. Aspetta, prima di andare, non è che ti ritrovi, adesso pensavo di averlo, un attacco da NAPL. NPL, attacco NPL, boh, devo guardare Roby. Dopo guardo, se ce l'ho troppo solo, ma penso di no comunque, perché ne avevo due, uno è su, nella, se non è ancora attaccato alla, all'antenna, non lo so, devo controllare roba. Se ti viene bene, è una giumbetta, però attacco da NAPL non ne ho neanche uno, c'ho di tutti i tipi, però di quello lì non ne ho, se ti capita, se no solo dopo vado alla GBC o da Fusa, vabbè. Ok, vedete, ci sentiamo domani, ciao, buon tutto qua, buona carica, buona partita, io dopo me la guarderò una giugana, ti volevo rilassare un pochettino, vai Luca. Via. Ciao Cla, a domani se Dio vuole, se no un altro giorno, ciao ciao. Ciao ciao ciao, te l'avevo dato uno Robin NPL tempo fa, vabbè forse l'hai usato. No, io allora avevo preso in fiera tanto tempo fa e ce l'ho ancora, se ti può servire, spezzone RG58N uscita PL, quindi se lo vuoi attaccare all'antenna devi solo mettere il barilotto normale. No, ma non voglio metterlo così, siccome deve stare all'esterno, voglio provare un'antenna per la FM che ho da quando avevo la radio tanti anni fa, e voglio fare una prova in 8808, però quella c'ha l'attacco N, sì, mi ricordo, me l'hai dato, lo sto utilizzando per l'ICOM, per il CR7000, l'attacco da N a PL. Ho capito, qua nel cassetto dove sono tutti PL non ce n'è, o BNC, quegli altri, o barilotto N, NN, barilotti NN, barilotti normale, PL 259, un po' di roba c'ho, però di quelli lì non ne ho, ne avevo due, uno è sicuramente attaccato da qualche parte, perché duplex l'ho eliminato, farò quello lì, era già N, non lo so, devo controllare bene Robert. Io l'avevo preso da Fusaro, mi sembra, ne avevo presi da Fusaro due, perché gli altri li avevo tutti usati, comunque se ce l'ho te lo porto, dai. Ok, buonanotte a tutti, alle prossime trasmissioni, ciao ciao. Sì, ciao Cla, buonanotte. Ok, vediamo se è rientrato Riccardo, non so, riprendi tu Luca, vai Riccardo, se dovrà accennare magari a cosa, vai Luca. E beh Luca. Eia, aspetta, voglio un messaggio. Beh, siete tutti scappati? Cioè, non c'è più nessuno. Cosa? Vabbè, non parlo. Vabbè, non parli, già parlo, ciao. Ciao Riccardo, buonanotte. Buonanotte, buonanotte Gianni, ciao anche a te. Non so, cioè vado a mangiare, torno e non c'è più nessuno. Sì, sono come bambino, un po' caldo e lo vado a letto. Ho capito. Tyson come sta, visto che non l'ho saputo questo fine settimana? Bene, bene, Riccardo. Sta dormendo. Ah, bene, bene. Vabbè, volato, aiuto. Sì, no, oggi no, ieri, perché oggi era troppo forte. Ma ieri sono di vecchio, vabbè. Vabbè, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Come al solito, babbo mi ha fatto pilotare. Però siamo andati in un posto in cui non sono mai andato, dopo, alla frana. È rimasto sempre dentro la conca a pilotare, invece mi ha portato anche alla frana in volo. Ah, bene, bene. Stavi pilotando tu? Sì, qualche volta mi fa pilotare a me. Vabbè, destra, sinistra, i freni. Vabbè. Ma baracchino non te ne porti quando verrà? Baracchino già me ne porto, è che posso fare gli ex con la Spagna, che non ha scaldato molto. C'era un po' di propagazione, però poi non ho provato, mi ha perso il tempo andare anche in parapendio, poi non ne avevo voglia. Comunque sì, mi porto il baracchino con il microfono a tavolo e un'antenna che non vale niente. Come dire, non voglio niente, che non riesco ad arrivare così a nessuna parte. L'antenna non ce l'ha nel camper? Sì, ho messo un'antenna da macchina, un'antenna veicolare sul camper, però non arrivo da nessuna parte con quella, perché anche fuori passando con i rami si è piegata, invece che non sta uscendo bene, devo ricontrollare anche le stazionarie, forse me ne metto una più robusta. No, magari. Se no, ti vanno a mettere il controllo a quella. Gausso, infatti sta da controllare perché prova a mettere una cosa un pochino più forte, sempre veicolare, per arrivare a fare gli ex. Sì, anche a parlare con Sassoli, vabbè. Vabbè, però sei proprio avanti alla Spagna, alle Baleari, penso che qualche collegamento riesci a farlo con una buona antenna. Non c'è nessun altro, Riccardo. Cosa? Non ho capito già. Non c'è nessun altro? Aspetta che non ho capito. Dillo bene. Non c'è nessun altro? Ah, te l'ho detto, sono andata a mangiare. Ci ho messo 10 minuti. Ho fatto una chiamata e diverse volte non c'era più nessuno. Era pieno di pieno, vabbè, c'erano un 5 persone, sono tutte scappate. E vabbè, dai, ci andiamo a letto allora, dai. Che ne so? Che ore sono? Sono le 22:10. Sono un bel stacco. Mi sono accalamagliato. Già ti ho sentito dalla voce. Vabbè, dai. Ci sentiamo, Riccardo, dai, buonanotte, io non vado a letto. Cioè, sono già a letto, ma... va bene. Buon 144 già, io vedo se c'è qualcun altro, se no entro dentro a stare alto, mi guardo... un po' di cose, mi ripasso qualche cosa sulla banda CB. Ciao, già, buonanotte anche a te. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno?